Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra sul cortile. Ricominciamo dopo la pausa estiva con una domanda. Abbiamo ancora bisogno di eroi? È un interrogativo che può apparire un po' démodé, quasi anacronistico, in una società come la nostra, che qualcuno definisce post-eroica, una società in cui l'idea di morire in battaglia o di morire per la patria, peggio ancora per l'Iraq o per l'Afghanistan, non piace quasi a nessuno. Eppure c'è in giro, anche nelle nostre società europee occidentali, una nostalgia del culto degli eroi, come dimostrano l'ammirazione per gli eroi dello sport, per Usain Bolt o per Federica Pellegrini, ma anche per quelli dei fumetti, da Superman all'Uomo Ragno. Il posto degli eroi nella società contemporanea è uno dei temi della puntata di oggi della Finestra sul Cortile, ma parleremo anche degli svarioni di Google Books e dei problemi legati alla creazione della più grande biblioteca online del mondo. Sentiamo cosa prevede il nostro sommario. Germania. La rivista intellettuale Merkur dedica il suo ultimo numero al tema degli eroi. Ne abbiamo ancora bisogno? Stati Uniti. Piovono critiche contro Google Book. È pieno di errori. Russia. In 70.000 per rievocare la battaglia di Borodino, l'epico scontro che 179 anni fa contrappose le truppe napoleoniche a quelle zariste. Danimarca. Libri umani contro il razzismo. Nelle biblioteche di Copenaghen si può prendere a prestito uno straniero in carne e ossa. Inghilterra. Pubblicata la classifica dei 10 libri più scaricati dalla rete. Al primo posto, il Kama Sutra. Egitto. Arriva il burka sexy. Come combinare passione e tradizione musulmana. Sta per nascere la grande Googleteca, chiamiamola così, insomma la più grande biblioteca online del mondo, che sta creando appunto il gigante di internet Google, con un accordo con gli editori e le biblioteche americane. E grazie a questo accordo ci sarà in futuro, e già in parte c'è, l'accesso a tutti i libri delle biblioteche del mondo e a tutti i libri fuori commercio usciti sul mercato americano. Ma questo accordo sta dividendo un po' le opinioni, perché ci sono una parte degli autori che si ribellano al fatto che i loro libri vengano ceduti gratuitamente online, e anche gli editori protestano per violazioni del diritto, della legge sul diritto d'autore. Ma ci sono anche altri aspetti più curiosi, se vogliamo quasi al limite del comico, che vengono denunciati da Geoffrey Nunberg sulla Chronicle of Higher Education, che è una rivista americana destinata a un pubblico di accademici. E quello che ci racconta Nunberg è quello che succede a un ricercatore che non cerchi semplicemente un'informazione, come spesso noi facciamo quando googliamo una sequenza di parole per cercare qualche cosa, una risposta a una domanda su internet. Per esempio, non so, vogliamo sapere la data dello sbarco dei 1000 di Garibaldi in Sicilia. Facciamo Garibaldi Sicilia e viene fuori la data. Ma spesso un ricercatore fa delle interrogazioni più sofisticate, e quando soprattutto cerca un libro di una biblioteca vuole sapere qualche cosa d'altro. Per esempio vuole sapere, non so, le prime edizioni francesi del contratto sociale di Rousseau pubblicate prima dell'Ottocento, oppure che tipo di termini venivano usati se per esempio liberty oppure freedom nei libri del periodo vittoriano inglese. E lì si scoprono, appunto, lì casca l'asino, potremmo dire, perché come denuncia appunto questo articolo della Chronicle of Higher Education, se noi digitiamo la data 1899, vediamo i libri usciti in quell'anno, scopriamo che sono usciti i libri di Raymond Chandler, di André Marot, di Raymond Williams e perfino la biografia di Bob Dylan nel 1899. Beh, evidentemente c'è qualcosa che non va, ma per esempio se digitiamo la parola internet nei libri pubblicati prima del 1950 scopriamo ben 527 risultati. Com'è possibile se non esisteva internet? Ma per esempio non so, le opere di Charles Dickens prima del 1812, che è la sua data di nascita, vengono fuori 182 risultati. Quindi Dickens scriveva prima ancora di essere nato, o addirittura un libro di lettere di Virginia Woolf datato nel 1900, quando aveva soltanto 8 anni, era davvero una bimba prodigio. Ma noi sappiamo che anche gli editori italiani hanno qualcosa da ridire, e allora abbiamo invitato in trasmissione il presidente dell'AIE, che è l'Associazione degli Editori Italiani, Marco Polillo, al quale diamo il benvenuto. Grazie, eccomi qua. Polillo, immagino che questo articolo di Chronicle non l'ha colta di sorpresa, perché mi pare che già anche da noi si stanno scoprendo delle incongruenze in queste... No, non mi ha colto di sorpresa, mi ha divertito come ha divertito lei e credo i nostri radioascoltatori, e ha confermato quello che era stata una ricerca che l'AIE aveva fatto nei giorni scorsi, sì, per fare un esame a campione di, sì, quello che succede nella digitalizzazione dei testi. E anche voi avete trovato qualche sorpresina. Noi abbiamo scoperto un tasso di errore dell'81%, non ci posso dire, del database di Google Books nel considerare come fuori commercio e quindi liberamente digitalizzabili le opere di alcuni importanti autori italiani del Novecento. Per esempio? 81% vuol dire 222 errori su 274 casi esaminati. Ma perché questo? Perché è chiaro che non può essere fatta una digitalizzazione puramente tecnica o meccanica del panorama editoriale italiano e internazionale. Occorre andare a vedere caso per caso. Certo. Possono essere autori che in determinate edizioni sono finiti fuori commercio, ma che poi sono stati ripresi in altre edizioni. Quindi il concetto di errore è enorme, perché non è soltanto una questione di carattere, come posso dire, puramente matematica, come il fatto di attribuire a Charles Dickens prima della sua nascita una infinità di errori, ma è un discorso molto più sottile di analisi dell'intero catalogo e dell'intero panorama editoriale, nella fattispecie italiano, e riportarlo in maniera corretta. Quindi è la fretta che gli ha fatto fare questi errori, insomma, cioè richiederebbe un lavoro molto più lungo. È la grande massa, secondo me, non è tanto la fretta, ma è la grande massa. Questi partono come dei rulli compressori, fanno tutto il loro lavoro, e nel grande lavoro c'è anche un margine d'errore che è abbastanza alto. Io ho sentito sull'argomento un'intervista che è stata rilasciata dal, credo che sia il responsabile europeo per, sì, Google Books, il quale diceva: sì, effettivamente noi siamo i primi ad ammettere che ci sono gli errori, però pensate a quanti sono i milioni di dati che noi stiamo digitalizzando, e immaginatevi cosa può essere la percentuale di errore. Quindi è altissima la possibilità che uno trovi qualche cosa, ma perché in realtà è straordinariamente alto il numero di input che vengono dati al computer. Ecco. Questo non vuole dire però che se a un certo punto uno fa un database, il database deve essere il più corretto possibile. Certo. Ecco, poi c'è un altro aspetto che voi mi pare abbiate sollevato anche davanti alla Commissione europea, alla Corte di New York, cioè il fatto che per esempio anche i libri di autori italiani pubblicati in America sarebbero disponibili online con silenzio assenso. Quindi, insomma, sostanzialmente un autore dovrebbe fare una dichiarazione preventiva, no? Quasi esattamente. Qui, secondo me, uno dei punti fondamentali di questa operazione è che ribalta un po' il concetto del diritto d'autore. Oggi il diritto d'autore prevede che chi vuole utilizzare un determinato testo, libro, articolo, chiamiamolo come vogliamo, di un signore, deve chiedere preventivamente il permesso. Il permesso può essere concesso o negato, può essere concesso a certe condizioni piuttosto che altre. Uno raccoglie tutte le informazioni da tutti gli aventi diritti e alla fine decide se fare o se non fare una certa cosa. Qui è ribaltato il problema, cioè certo, c'è una sorta di assenso automatico che deve essere smentito dal diretto interessato, e questa è una cosa che non sta in piedi sulla base delle leggi non soltanto italiane ma delle convenzioni internazionali sul diritto d'autore. Bene, noi ringraziamo Marco Polillo e a presto. Grazie a alla voi, prossima. Arrivederci. E restiamo nel campo del libro online. Dopo la musica, ora tocca all'editoria essere vittima dei pirati informatici. L'Independent ha stilato una classifica dei libri più piratati su internet, e in questa classifica, a sorpresa, non ci troviamo né Dan Brown né la Rowling, nessuno dei grandi bestseller del momento, ma libri come il Kama Sutra, che viene al primo posto, una guida al Photoshop, ma anche al terzo posto la Complete Idiot's Guide to Amazing Sex, un manuale di sesso per gli stupidi, diciamo, per gli imbranati, e anche per esempio una guida all'energia solare e così via. Praticamente per arrivare ad un romanzo, ad un libro di narrativa, di fiction, bisogna arrivare al settimo posto con Twilight di Stephanie Meyer. E evidentemente il pirata informatico non cerca i bestseller e nemmeno i classici della letteratura, ma solo quello che gli serve sul momento, proprio come i corsari di una volta. Non giudicate un libro dalla copertina è il motto della Living Library di Copenaghen, la biblioteca vivente, che non presta libri ma persone. Ci sono ben 55 libri umani, chiamiamoli così, che possono essere presi a prestito, portati a casa, per parlarci, dialogare, capire la diversità e scoraggiare il pregiudizio. Un'iniziativa che sta facendo discutere molto in Danimarca. Tra i 55 libri umani, per esempio, c'è un ex spogliarellista, un rifugiato che viveva in un container, un poliziotto e così via. Forse si potrebbe anche imitare questa iniziativa in Italia, per esempio prendere in prestito un clandestino alla biblioteca di Lampedusa o un omosessuale al Gay Village di Roma. Basta non farsi beccare dalle ronde. La finestra sul cortile. Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, è una battuta di Bertolt Brecht che viene ripetuta quasi fino alla nausea e spesso citata a sproposito. Ma è proprio vero che si è fortunato quel popolo che non ha bisogno di eroi? È quello che si chiede un numero speciale della rivista Merkur, che è una delle più importanti riviste culturali tedesche, uscita proprio in questi giorni in Germania. Perché il fatto di vivere in una società che alcuni storici definiscono post-eroica potrebbe dare veramente ragione a Bertolt Brecht. Eppure, constatano Karl-Heinz Bohrer e Kurt Schell, che sono i direttori della rivista, al di là dell'abuso politico che se ne è fatto e se ne fa talvolta, il bisogno di eroi è una necessità antropologica e psicologica proprio insita nell'essere umano, anche se declinata in maniera diversa nel tempo e nelle diverse culture. abbiamo veramente bisogno di eroi. C'è una nostalgia del culto degli eroi che si dimostra, per esempio, si esprime nella venerazione degli idoli sportivi. Lo abbiamo visto recentemente ai campionati del mondo di atletica con le imprese di Usain Bolt, oppure ai campionati di nuoto con la nostra Federica Pellegrini, ma anche per esempio verso le rockstar, la ondata di commozione che si è diffusa per il mondo per la morte di questo grande cantante, insomma, chiaramente dimostra quanto il culto di questi personaggi sia radicato nella coscienza collettiva. E poi vediamo anche proprio in queste ore il tributo che gli italiani stanno dando a Mike Buongiorno. In realtà, poi scacciati dalla vita e dall'immaginario anche politico, gli eroi tornano prepotentemente sulla scena in varie forme, anche per esempio nei fumetti, pensiamo a Superman, all'Uomo Ragno, insomma, oltretutto, ecco, al di là di questi che sono i culti, diciamo, più legati alla nostra cultura occidentale e consumistica, basta gettare l'occhio al di là del nostro orizzonte democratico per scoprire che in qualche paese c'è ancora bisogno di eroismo. Pensiamo ai moti di Teheran, oppure a quelli, agli afghani che, nonostante le minacce dei talebani, si sono recati alle urne, alle ultime elezioni. Ecco, ma proprio per parlare di questi temi abbiamo in linea un ospite che salutiamo, al quale diamo il benvenuto, lo storico Sergio Luzzatto. Benvenuto alla Finestra sul Cortile. Salve. Luzzatto è un collaboratore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, quindi ci daremo del tuo, è inutile fingere. Volentieri. Ecco, Luzzatto, in Italia è un popolo, si diceva, di santi e navigatori, insomma, ultimamente direi più di santi che di eroi. Wojtyła ne ha fatti più che in tutta la storia della Chiesa, e spesso tendiamo invece a dimenticarci degli eroi civili come Ambrosoli o dalla Chiesa. Invece facciamo i funerali di Stato per un grande presentatore televisivo che però, insomma, non è propriamente un eroe. Ecco, non ti pare che ci sia un'incongruenza? Come mai guardiamo a questi modelli e non proponiamo alle giovani generazioni dei valori diversi, eroici, tra virgolette? Ma sì, io in effetti penso che sia opportuno forse distinguere fra dei personaggi che sono dei miti d'oggi e dei personaggi che invece nel passato o al presente meritano la qualifica di eroe. Ci sono dei miti appunto sportivi, ci sono dei miti televisivi, però essere dei personaggi famosi o mitici non significa necessariamente essere degli eroi. Io credo che per distinguere gli eroi oggi, per confrontarli a quelli del passato o del futuro, forse c'è una categoria che merita di reintrodurre, è quella del coraggio. Certo. No? Cioè, mi sembra che si può essere famosi senza essere eroici. Difficile trovare dell'eroismo, per esempio, nella carriera pur fulgida dal punto di vista comunicativo di Mike Buongiorno, per parlare di un personaggio che tu hai nominato, no? Anche gli sportivi non hanno bisogno di un coraggio particolare per diventare grandi, no? Mentre invece eroe forse ancora al presente è chi ha coraggio. E quindi la domanda forse che noi dobbiamo porci è che come si può, diciamo, superare le frontiere umane del coraggio al giorno d'oggi. E quindi forse Ecco, abbiamo alcuni esempi che potremmo fare, no? Per esempio, un personaggio come Saviano potrebbe essere proposto, ecco, come modello. Io penso che, diciamo, dobbiamo distinguere non solo nel tempo ma nello spazio. Ci sono sicuramente delle latitudini e delle longitudini oggi dove ancora c'è bisogno di eroi, no? E tu hai nominato il caso di Teheran, la ragazza che è diventata, diciamo, un simbolo della protesta, certo, contro le elezioni più o meno truffaldine. Insomma, purtroppo ci sono tanti paesi in cui la democrazia non è conclamata e non è, o addirittura non esiste affatto, che ancora necessitano di eroismo. Io credo che Bertolt Brecht, quando diceva beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, in qualche modo alludeva lui magari era comunista, però alludeva comunque, certo, a delle situazioni in cui effettivamente i diritti di tutto vengono rispettati, di tutti vengono rispettati. Ancora oggi esistono dei popoli, dei paesi, dei luoghi dove si ha bisogno di essere eroici. Ecco, per esempio, dove, come appunto dicevamo, la criminalità organizzata controlla il territorio, insomma, in cui i diritti individuali vengono continuamente minacciati. La cosa interessante della figura di Saviano è che è un eroe che è passato attraverso la scrittura, no? E mentre invece noi siamo abituati a pensare che nel mondo di oggi ormai quello che premia sono altri talenti rispetto a quello dello scrittore. Da questo punto di vista è una figura insieme arcaica e postmoderna, quella di Saviano. Ma in ogni caso forse il coraggio di Saviano è attribuibile a una categoria più generale che tu evocavi, che è quella del coraggio civile. Certo. E da questo punto di vista forse noi possiamo anche trovare altre figure eroiche, no? Anche intorno a noi, anche in Italia. Io personalmente penso, sono fra quelli che pensano che, per esempio, il papà di Eluana Englaro, a suo modo, è un eroe del nostro tempo. Ah, non c'è un eroe. Un eroe nel senso proprio anche della misura in cui greca, no? Del termine, nella misura in cui la tragedia greca metteva in scena in genere grandi contrasti fra le ragioni degli affetti e le ragioni invece dell'interesse pubblico. Ecco, se vogliamo pensare a quella vicenda, è la vicenda di qualcuno che ha pagato dei prezzi altissimi per rivendicare il proprio diritto. Esatto, certo. E per vincere una battaglia che riguarda tutti in qualche modo. Ecco, c'è uno storico... Giorgio Welby, insomma, cioè... Sì. Forse alle nostre latitudini, per fortuna, non abbiamo bisogno di eroi politici, ma abbiamo ancora bisogno di eroi civili. E di testimoni, soprattutto, ecco, no? Di sì. Testimoni civili. Bene, grazie Sergio Luzzatto, alla prossima. E rimanendo in tema di guerre, c'è anche chi la guerra si diverte a farla per gioco, per finta, per commemorare una battaglia vera del passato. È quello che è avvenuto, come ci racconta il Moscow Times, a Borodino, dove nel 1812 si confrontarono le armate di Napoleone e quella dello zar, e la partita si risolse con molti, molti morti sul terreno, ma sostanzialmente con una 0-0, una specie di parità. Adesso 70.000 persone si sono vestite da ussari o da ufficiali e soldati napoleonici e hanno simulato la battaglia, e questo è avvenuto domenica scorsa. Ecco, certo, quando pensiamo alla Russia di oggi, le battaglie che ci interessano di più sono quelle che si combattono nel lettone di Putin. Anche il burka, un abito che nasconde completamente il corpo femminile, in qualche maniera è un simbolo della inferiorità della donna nel mondo musulmano, può diventare un abito sexy. È quello che hanno tentato di fare due stiliste americane di famiglia di origine musulmana, Nila Hashmi e Fatima Monkush, che sul Daily News e Egypt ci raccontano la loro impresa. È un tentativo proprio di rendere più appetibile, più sexy anche questo abito tradizionale, cioè di unire in qualche maniera la tradizione alla passione moderna. Certo, dubitiamo che tra le ragazze islamiche questa linea di vestiario possa avere qualche successo. Forse le ragazze musulmane continueranno a preferire i pantaloni, come la giornalista sudanese che stava per essere frustata per avere indossato i jeans. Le ragazze occidentali forse potrebbero essere sedotte dal sexy burka e saranno libere di indossarlo senza timore di essere lapidate. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande in redazione, Giacomo Spunta in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.